Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. E come sempre in questa seconda parte di Vota Antonio ci dedichiamo al punto di Stefano Folli, cerchiamo di mettere insomma in chiaro come sono andate le cose nella settimana, che cosa può succedere nei prossimi giorni. Vi ricordo come sempre che potete scrivere a ilpunto@radio24.it. Il punto di Stefano Folli. Lo dico per Bersani, vedendo anche le polemiche, le ironie di queste ore sulla rete, la rabbia dei vecchi militanti delle case del popolo, un appello, fermatevi prima che una risata vi venga incontro. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora, la risata è già venuta incontro, già però, lo citava. Però hai notato come si è trattenuto Renzi? Sì, detto, sì. Vi viene incontro una risata, non ha detto vi seppellirà. Si è tenuto un po' di prudenza a questo punto. Allora, la risata in realtà è già venuta incontro, perché sui social network, su Twitter in particolare, si è scherzato molto su questo tema con due hashtag: nuove regole primarie PD e regole primarie. Ve ne leggiamo qualcuno per darvi un'idea. Allora, Matteo Grandi con l'hashtag nuove regole primarie PD: se dimostri di aver fatto spesa alla Coop il giorno delle primarie, voti due volte. E ancora Ab Errante: vince chi prende il bouquet lanciato da D'Alema. Giovanni Cocconi: secondo me questo è il più bello, se Renzi vince al secondo turno si farà un terzo turno. Mante, che sarebbe Massimo Mantellini: per votare sarà necessario che il candidato pronunci correttamente la parola Coca-Cola, che evidentemente per un fiorentino è particolarmente difficile. E addirittura su libernazione.it, un blog, è stato creato un generatore automatico di regolamenti per le primarie del Partito Democratico. Niente male davvero. Stefano, oggi è il grande giorno finalmente. Sì, è grande giorno. Beh, sembra un po' uno scherzo, perché hanno fatto di tutto per complicare le cose in un modo incredibile, questi democratici. E, insomma, io spero che alla fine trovino un accordo, adesso, al di là di queste ironie che sono tutte molto divertenti, spero che trovino un accordo, perché se non lo trovano, insomma, vedere un partito che si sfascia intorno a una questione di regole di partecipazione a primarie che esso stesso, questo partito, ha voluto mettere nella sua vita quotidiana, nella scelta dei candidati, sarebbe assurdo. Però al di là di tutto c'è un problema di fondo, che Renzi rappresenta un tipo di Partito Democratico, un modello di partito che non è quello di Bersani. Sono cose molto diverse, e questo naturalmente alla lunga potrebbe essere un elemento vero di separazione. Non oggi, si pensa, però in futuro forse sì. Stefano, l'ultimo sondaggio che abbiamo avuto modo di vedere, è uscito ieri, era di SVG e diceva che oltre al Movimento 5 Stelle, quasi a ridosso del 20%, il PDL ormai sprofondato, poi ne parleremo più avanti, intorno al 15%, abbiamo un Partito Democratico che al 25, secondo questo sondaggio SVG, quindi sceso di circa un punto e mezzo, due rispetto a quello che si dava prima. Secondo te, posto che i sondaggi adesso hanno il valore che hanno, può aver avuto un qualche impatto sull'elettorato questa polemica sulle primarie, questi segnali di scarsa apertura? Ma io penso di sì. Cioè, dare l'impressione che il gruppo dirigente del PD si chiude a riccio, no? Si mette nel ponte levatoio e tira su il ponte, questo è un messaggio devastante per l'elettorato, perché le primarie invece sono un messaggio opposto, di apertura, di partecipazione dei cittadini, e alla gente piace molto partecipare alle primarie, no? Perché hanno l'impressione di contribuire in maniera essenziale alla scelta del candidato, dei candidati. E, ecco, tagliare la strada e dare invece l'impressione che si vuole richiudere la porta che si era aperta, secondo me è profondamente negativo. A me hanno imparato, ripeto, che quando si fanno le scelte politiche e personali, prima bisogna mettere in prima fila le urgenze che pone la vita. Questo "a me hanno imparato" di Nicola Zingaretti rimarrà mitico senza dubbio. Sì. Detto ciò, sì, detto... non lo possiamo impiccare. No, ma assolutamente. Era per scherzare. Poi in realtà ci scrive un ascoltatore notando che Zingaretti avrebbe vinto probabilmente a mani basse nella corsa per il Campidoglio, nella corsa a sindaco di Roma, dice, e che Riccardi, il ministro, si è sfilato da un'eventuale corsa al Campidoglio giusto ieri, ci dice, non è che, Giuseppe ci scrive, non è che il PD ha voglia di perdere anche questa volta. Ma il PD ha messo in campo uno dei suoi migliori esponenti, che è Zingaretti, al di là di questa infelice... No, però ha voglia di perdere, intendo, il Campidoglio. Campidoglio. E doveva però scegliere se mettere in campo un personaggio forte per la Regione Lazio, e io credo che con questo Zingaretti abbia fatto, come dire, abbia salito un gradino importante nella sua carriera di futuro dirigente del centro-sinistra. Beh, il Campidoglio, io penso che occorrerà scegliere qualcuno che possa andare bene sia ai cattolici che agli esponenti laici della sinistra, ma io credo che la cosa sia possibile, non è che Riccardi fosse l'unico candidato. Sarà una battaglia più dura sul Campidoglio, ma il centro-sinistra è comunque in condizione di giocarsela. Ah, il punto è radio24.it, ci scrive Anna Maria e ci parla di legge elettorale, che è stato un altro tema di questa settimana. Dice, non sarebbe meglio il doppio turno, si eviterebbe la proporzionale che esporrebbe all'imprevedibilità, si eviterebbe il maggioritario, secondo me anticostituzionale, perché regala voti non assegnati. Questo è quello che scrive Anna Maria. Io ci aggiungo una battuta trovata su Twitter, anche questa niente male, la firmata Microsatira sul fatto che è arrivato questa nuova proposta da parte di Roberto Calderoli, che qualcuno ha già ribattezzato El Puerco, la proposta, perché prende spunti dal modello spagnolo. Scrive Microsatira: Calderoli che studia una legge elettorale è la nuova pubblicità del CEPU. Anche là mi sembra che siamo piuttosto imballati, Stefano. Molto imballati, molto bene. Calderoli un titolo ce l'ha, perché è l'autore della precedente legge, quindi lui una legge l'ha fatta, devo dire pessima secondo me e secondo molti, però era giudicata pessima anche dalla sinistra, dal centro-sinistra, che adesso tutto sommato se la vuol tenere, perché questa è un po' la realtà delle cose. Preferiscono votare con il Porcellum perché cominciano a intravedere la vittoria. È un gioco secondo me un po' pericoloso. Comunque siamo imballati e diventa sempre più difficile arrivare a correggere la legge, tanto più che una riforma fatta all'ultimo momento, in questo modo affannoso, rischia di essere persino peggiore del modello che adesso abbiamo. Dello stesso Porcellum addirittura? Beh, insomma, se le cose fatte male all'ultimo momento, qui, insomma, il paese avrebbe bisogno di una legge seria e ben fatta. La signora dice il doppio turno. Sì, il doppio turno francese piace anche a me, ma naturalmente non esiste in questo momento la possibilità che possa essere accettato. Non c'è la minima possibilità. Ultimo giro, Stefano, sul PDL. Come abbiamo visto, i sondaggi sono quello che sono, insomma, intorno a un 15%. Berlusconi, alcuni dicono che stia per mollare, alcuni giornali dicono che stia per mollare, alcuni retroscena. Altri retroscena dicono invece che è pronto a resettare tutto, tutti sono in discussione. Secondo te che succede? Lui ha una gran voglia di resettare, come dici tu, cioè di fare un altro predellino, un'altra uscita, così, un colpo di scena, un nuovo partito, una nuova sigla, un nuovo gruppo dirigente. Ma solo che sono operazioni che riescono una volta, è riuscita qualche anno fa, difficilmente riescono una seconda. A me sembra che il centrodestra sia in una crisi profondissima. È stato complessivamente delegittimato anche dallo scandalo del Lazio. Grazie Stefano Folli, come tutte le settimane. Buona giornata, noi ci fermiamo. Vi ricordo che poi, tra l'altro, sia il punto di Stefano Folli che naturalmente tutto il resto della trasmissione lo potrete riascoltare in podcast. Ci ritroviamo tra poco e parliamo di troll e vi spiegheremo anche che cosa sono.